L'agnello e il lupo. C'era una volta un agnellino che era davvero birichino. Ogni giorno si cacciava in un guaio oppure in un altro. Oh cielo, sono tutto fangoso e puzzolente. Alla mamma non piacerà affatto. Proprio in quel momento arrivò la madre e guardò con rabbia l'agnellino. Non mi ascolti mai. Ti ho detto di non saltare da una tale altezza. Ma ti ho anche detto che è stato divertente. Anche tu non mi ascolti mai, mamma. La mamma non poté fare a meno di ridere e di abbracciare suo figlio. Vieni ora, ti pulisco. Sua madre lo amava così tanto che era sempre in pensiero per la sua salvezza. Sua madre diceva sempre: stai attento, non devi andare nella foresta. Gli animali selvaggi vivono lì, potrebbero farti del male o addirittura mangiarti. Oh mamma, ti preoccupi molto. Ma l'agnello birichino non ascoltava mai la mamma. Andava spesso nella foresta e giocava fino a quando arrivava il buio della sera. Un giorno, come al solito, l'agnello vagava lontano dalla foresta e lì vide una sorgente. Ah, una sorgente! Che tempismo! Avevo proprio sete! Così decise di prendere l'acqua della sorgente per placare la sua sete. Mentre l'agnello stava bevendo l'acqua della sorgente, un lupo osservò tutto da dietro un albero. Ah, un succoso e delizioso agnellino. Oggi è il mio giorno fortunato. Così, con i suoi cattivi pensieri, il lupo iniziò ad avvicinarsi all'agnello. L'agnello non si accorse del lupo e continuò a bere l'acqua. E non c'era nessun altro, oltre i due animali, per salvare l'agnello dal lupo. Sai che questa foresta appartiene solo agli animali selvaggi come me. Perché sei venuto qui per prendere l'acqua da questa sorgente? L'agnello fu sorpreso quando vide il lupo di fronte a lui. Sapeva che i lupi erano animali pericolosi. La mamma mi ha avvertito dei lupi. Sono sicuro che vuole mangiarmi per pranzo. Questo individuo è feroce. Devo scappare da questo animale al più presto. Oh, ti porgo le mie scuse, potente lupo. Sono solo un agnellino che non sa nulla. Stai anche sporcando l'acqua. Come potrò bere quest'acqua inquinata ora? Ti chiedo scusa di nuovo, ma non rimarrai assetato, grande lupo. L'acqua dalla tua parte è pulita. Eh? Perché la sorgente sgorga da dove ti trovi in piedi per arrivare fino a me, signore? Il lupo rimase sorpreso di sentire una risposta così intelligente dall'agnello. Ma il lupo stava solo cercando una scusa per uccidere l'agnellino. Come osi discutere con me? Penso che tu sia lo stesso agnello che mi aveva maltrattato l'anno scorso. L'anno scorso? Ma signore, non ero nemmeno nato allora. L'agnello temeva che il lupo stesse cercando una scusa per ucciderlo. Così si fece cauto nelle parole e nei gesti. Così sia l'agnello che il lupo si parlarono con cautela. L'agnello sentì alcuni boscaioli. Stavano andando proprio dove erano il lupo e l'agnello. L'agnello, intelligente, pensò tra sé: se posso continuare a parlare con questo lupo ancora per un po', i boscaioli arriveranno e lo inseguiranno. Signor lupo, hai ragione, ho sporcato l'acqua, ma non volevo farti arrabbiare. Ma tu mi hai già sconvolto. Oh, lascia che mi scusi raccontandoti una storia. Storia? Ah, che spreco di tempo. Ma ho bisogno di ascoltarlo e di avvicinarmi lentamente a lui, perché non ho la forza né la voglia di inseguire questo agnello. C'era una volta... In questo modo l'agnello continuò a parlare per qualche altro minuto. Mentre l'agnello parlava, arrivarono i taglialegna. Videro sia l'agnello che il lupo. Ah, guarda là, un lupo! Sono così pericolosi! Catturarono il lupo e lo picchiarono prima di lasciarlo andare. L'agnello era sollevato adesso che era al sicuro. Oh, oggi ho avuto una gran fortuna! Tornò di corsa da sua madre. Le raccontò cosa fosse successo nella foresta con il lupo e i taglialegna. E poi promise a sua madre di non tornare mai più nella foresta. E la madre fu sollevata di sapere che suo figlio aveva imparato la lezione. Oh sì, ora lo so, mamma. Non devo andare da solo in luoghi strani, specialmente dove animali più forti e feroci non aspettano altro che uccidermi.